scoprire storie della notte. Noi non ci perdiamo mai, anche se siamo nei guai. Brilla la luce negli occhi, la luna è quasi piena. I rumori del treno, della nostra ferrovia. No, no, no, no, no, io non mi arrenderò. No, no, no, no, no, io arreso no. No, no, no, no, no, io in vendita no. Tu che sei un miraggio, dammi le tue emozioni, fai sentire la tua voce più forte se puoi. Canta canzoni triviali alla nostra libera follia. Mercanti di sogni siamo noi. No, no, no, no, no, io non rinuncerò. No, no, no, no, no, io non fuggirò. No, no, no, no, no, io angelo no. Catene e guardiamo oltre i divieti, noi non ci fermiamo mai, anche se siamo nei guai. Un'altra notte va via e nelle mani resta il vuoto e volti sconosciuti si marcia a piedi senza età. No, no, no, no, no, io non rinuncerò. No, no, no, no, no, io non fuggirò. No, no, no, no, no, io angelo no.